9.30. Vai. Adesso sono attaccato. 9.40. Cazzo, vedi che è già un momento. Non è possibile, lo vedo qui dall'assorbimento. Lui sono di cose, mi si assorbe, poi sta andando in fatto, tra un po' che c'è un buco. No, ma aspetta che la radio te la migliora, proprio te la amplifica ancora di più, Perché vuol dire che è accordato bene, che è un buon compromesso. Se fosse stato uno di quelli, ti avrebbe scolpiato la radio e ti avrebbe aumentato magari anche più il segnale. Però la radio se l'avrebbe mangiata. È vero. Va bene. Cosa ti ho detto? Infatti molte volte vedi, il compromesso non è tanto avere un 9.30 e magari avere anche un 9.25 con una radio comunque che sfonda. Ah, già va bene, noi siamo vicini, quindi ti posso dare questi segnali qua. A meno che c'è Claudio, l'ascolto, se ne vuole entrare. Considera comunque che lo sto pilotando con 2 watt, questo affare esce 2 watt e mezzo, quindi anche perché me ne accorgo dalla sorgente in ampere, che non riesco a salire oltre i 6, quindi sicuramente non sta dando il massimo. No, ma guarda, quello affare lì, quello nero, io lo pilotavo con il Midran, che ha mezzo watt o forse uno di portante fissa e 18 modulati, quindi vai tranquillo e non distorceva, anzi aumentava di radio e di segnale, ma di 20 dB però non aumentava. Secondo me infatti dipende sempre dalla distanza, ripeto, non si può fare adesso un paragone, noi siamo qui uno di fronte all'altro praticamente, cosa ti posso dire, è come se... Anzi, è perché hai un apparecchio che può attenuare, se no con un apparecchio normale non avete notata la differenza. Infatti. Prova il Mobicon con quello lì. Il Mobicon se l'ha provato via, Cristian. Perché col Mobicon magari avresti fatto più... non è che sembra l'altra, Però se l'ha provato via l'altro giorno, tant'è vero che ho dovuto di nuovo cambiare le connessioni, perché... Cazzo, ho detto, pure lo stavo usando io questo microfono l'altro giorno e non funzionava più, l'ho attaccato e non riuscivo a trasmissione. Cazzo, non è possibile. Invece poi mi sono ricordato che stavo usando il Mobico. No, va bene. Allora, questa è una cosettina così, non è che fa a nulla, però, cioè non è che poi un cazzo di voce come un cazzo di variscia nelle torrene, poi solo il microfono, cazzo, già è impiegato col fiumare, se poi stavo a trasportare una parte là mi cercherò un po' al mare, di quelli amplificati li metterò uno di quelli. Guarda che se vuoi ti presto il mio, anche senza essere amplificato, la radio è forte, mi tu l'hai sentita? Sì, lo so, ma può servire a te, sì. Ma cosa può servire a me, che io adesso la posso usare, sai quando? Quando vado in banda, che io voglio fare collegamenti, cosa molto rara. Tu non hai più gara, anche tu, lui. No, vabbè, comunque cambia la modulazione tra questo e quello. Se cambia. Anche, ma schifo fa questo. No, questa è buona modulazione, solo che sì, non è la modulazione con la quale sono abituato ad ascoltarti io. Tu devi considerare che io sono un vecchio CB che ti ascolta da tanti anni. Ho capito. Cosa ci vuoi fare? Correggendoti. No, diciamo che mi piace giocare. Ma ti sei corretto alla grande. Sì, vabbè. Questo è l'altro. A me, sinceramente, mi piace il Lincoln, però anche questo è. Su 48 è bello. Questo ha la radio più squillante, anche se però la timbrica di quella ti rende la voce più cupa, questa invece te la schiarisce, cioè ripeto, c'è poca differenza tra questo e il 44. Ascolta, e se io, ma tu pensi che sia il microfono invece che sia la radio? No, io provo il radio, non è possibile, perché tu hai a disposizione 3 microfoni, tutte e 3 che si possono connettere lì, se non è vabbè che sono tutte della stessa categoria, anche quello è vero, dovete provare magari dei microfoni di altre marche, ma non dove li prendi ormai? Lo so, ma non devo farci, ormai questo non ti piace la relazione. Quello è tu Chiara. Questo è il Ruiz, eh? Sì, questo qui è buono, te l'ho detto, come si dice? Te l'ho spiegato l'altro giorno, la relazione della radio, e di quel tema, non è modulazione che si sente in 27 metri, capito? Ah, ho capito. Dai, non è, ti posso dire, adesso sto cercando di metterti, di fare mente vocale, di cercare di ricordare qualcuno che modulava con quella timbrica, diciamo, con quel tono così, placa, ma non mi viene in mente nessuno. È una modulazione buona, riposante, rilassante, capito? Non so come spiegartelo, non posso dire. Questo sì che mi scaldi il cuore. Hai finito con questo beep? Guarda che ti mando i carabinieri, coglione! Comunque abbiamo fatto dei collegamenti che con questa qua, quella con l'Equessenza, siamo divertiti, ti ripeto, siamo andati a giocare. Ah, a proposito, ti volevo dire, ti ricordi che mi hai mandato l'altra sera, o stamattina, quando era, il qualcosa di quel tipo che stava venendo con l'apparecchio che ti ho detto, sì, l'ho visto anche io. L'ho contattato e gli ho detto pagamento in contrassegno. Cosa ti ha risposto? No, preferisco pagamento sul conto bancario. Ma poi, sai, ti stavo dicendo io l'altra volta, no? Che gli ho detto che mi ha mandato un video, ci sei? Sì, mi ricordo. Ma senti la lavatrice per caso? Io pensavo fosse a Fertili. Sta atterrando. Sì, e beh? Mi aveva detto, gli ho detto, no, vabbè, ho detto, vedo, sì, lo vedo che stai parlando, però ho detto, inquadrami l'apparecchio con la... fammi vedere che quando prendi il microfono lui fa in trasmissione, e voglio vedere il watt che è, me l'ha fatto vedere, ho detto, sta uscendo per watt. Cioè, perché non c'ho antenna. Ieri invece ha commentato con uno, visto il commento, siccome io seguo quel coso di film, ha commentato con uno, e anche io ho la Venus, quell'antenna che tu hai limite, mi prendo quella cosa 40 euro a fanculo. Anch'io c'ho la Venus, però cazzo, ma non è avanti alla 27. Cioè, non ho capito, la Venus, eh? Ah, ti spiego. C'era una persona ieri in quel gruppo ha commentato se qualcuno conosceva questa antenna, se non mi ricordo si chiama Venus, come che cazzo si chiama, quell'antenna che te l'avevo detto io, quella 27, tutti costa poco, e ho detto va bene, te ne ricordi? Ah sì, aspetta che mi è venuta in mente una cosa, il gemello preciso è quello che stai utilizzando tu, guardami, 30 euro è da prendere, è meglio, però io ho mezzo bisticciato. Pure? Sì, perché gli ho detto, vabbè, cazzo, dammi qualche garanzia, così. Faccio, cazzo, scusa un attimino, cosa vuoi, ti spedisca la cosa e poi non mi mandi i soldi. Che ti dammi io? Ma quella è una cosa normale, no? Guarda che, alla fin fine, questo affare si riduce a niente. Adesso io ti ho messo... ti ho sostituito quegli affari che erano scoppiati, poi ti ho messo il sostituto delle resistenze, ti ho messo una grossa da 5 watt che prima era 9,5 watt, che era stata cotta, ti ho sostituito un diodo e comunque mi sta andando, vedo che non è neanche tanto caldo, è sempre acceso, è da poco fa, l'assorbimento è buono, quindi è giusto, non c'è niente che non va. Poi ti dipende se non gli butti niente a radiofrequenza. Certo. Questo è l'altro, quello grigio. Che però, aspetta un attimino, non so neanche se è attaccato, aspetta. No, perché io mi devo fare per... Sì, è attaccato. Non è caldissimo, però è caldo. Non è... è tiepido, va? No, anche questo qui è... ti stavo dicendo comunque... questa persona, una persona del gruppo, ha detto, ha chiesto, c'è qualcuno che conosce questa antenna, sa dirmi, sai, come funziona, se resiste, se ha una buona resa, e lui ha risposto, sì sì, io ce l'ho da tanto tempo, una buona resa, faccio dei collegamenti, cazzo, mi ha detto che non è lui che è antenna della 27, che non potevi sollevare più di 3 watt. Ma lei ha risposto tu? No, non ho risposto, ma io non avevo pensato, cazzo, ma è possibile? Cazzo, mi ha detto, no, io non tenevo la 27 e c'era quella, capigli? Sicuramente uno che vuole fare quattrinia, tu. Però c'è quell'altro che, guarda che ha come profilo molto cross, ho visto anche suo nome, cognome, fa motocross, ho visto il tipo che ha questo preciso al mio, quello che stai utilizzando tu adesso, e lo vuole, ne vuole 30 euro più spese di spedizione, si potrebbe fare, però io ormai l'ho conservato, l'ho messo da una parte, ci ho anche parlato al telefono, sembra una persona in gamba. Io lo so, però la verità io 30 euro più 10 di spese di spedizione, più o meno. Preferivo 131. No, lascia perdere, cazzo, io l'ho regalato, Sabillo. È fatto male che l'hai regalato, 231 lo conosco come le mie tasche, non posso cambiare il valore, non posso rifare anche 200 fa. Vabbè, ormai non fa. Non fa a prenderlo. Che poi è stato utilizzato con una radio che spinge 40-70 watt e è iniziato a fare faville perché si sono dimenticati di abbassare i watt, vabbè comunque già se ne parlo in verticale, è riparabile per carità, però ormai se non l'avevi già visto anche era il Brini, non era, è un similare, dai. No, non l'avevo visto, non mi è mai capitato di vedere il tuo, però ripeto, cazzo, la bellezza di quello è che comunque va con la 220, non ti devi preoccupare di avere alimentato l'origine, e poi lo puoi tirare quanto a mala sorte vuoi, perché ti puoi fare modifiche, fare questi tanti utilizzati, anche se sono a mosso, anche soprattutto se sono a mosso, non puoi farti un avanzo. Ma io adesso non so se quello lì è così di sé o se è stato modificato, forse un po' è stata allargata la molla, credo, non lo so, non l'hai misurato con un wattmetro? No, perché il wattmetro non lo spezzò, mi sono portato appresso il tutto quando sono sceso, ho portato lo spezzone del... aspetta nel peso del giorno, mentre ho l'accumulatore, però poi non ho pensato, cazzo, il generale non c'è spezzone, vaffanculo, io qui non ne ho, perché non ne ho neanche a casa, perché li avevo lasciati di qua in campagna lì, poi non so che è andato. Ho capito, no, io qualche giorno ce l'ho qua, tu. Se passi, siccome mi devo preparare che io alle 5 e mezza devo essere al campo, che oggi Gabriele ha... alla partita, se passi te lo prendi e lo colleghi e vedi un po' se lo puoi tirare o meno, oppure se lo puoi lasciare così, se lo puoi lasciare così, non so. Beh, questo qui in base alla, non so se non sta uscendo, in base alla tecnica non è che lo puoi tirare molto, perché tirare molto significa che poi puoi compromettere il buon funzionamento della radio, sai come funziona, no? Tirare le molle significa sovralimentare le impedenze delle tensioni della radiofrequenza che arriva, che pilota il finale. Quindi cosa succede poi? Che anche se riesci a darti 10 watt in più, magari poi ti manda la radio a troie. No, allora no. Guarda, la radio lascia perché te l'ha migliorata al 100, proprio te l'amplifica bene. Non lo so, se vediamo spezzone io lo trovo la potenza, se no tra un po' te lo provi tu come vuoi. No, se vieni ti prendi lo spezzone, io mi preparo, te lo tieni, quello lì te lo usi per un po' e poi vediamo. Sì, non credo che ci sia nessun problema, no, perché portarmi quell'altro adesso, no, tutta la volta che vengo io già me devo portare, già lo sai, quando scendo qui mi devo portare, tutta volta la spesa, la roba da mangiare, la stare a caricare la macchina, poi Kibbe non pesa 2 ienti, quindi uno che devi stare attento che non prenda colpi, il microfono a tavola comunque nella borsa si sta male, tutto l'altro, ma in come? vaffanculo, lascio lì a ciccia, e uso questo. Se riesco a farmi qui una stanzioncina con questo biomologato, lì metto già attacco. Quindi se avessi trovato un mio c'è tutto in due. Ma è questo. Io vieni però veloce, che nel frattempo mi cambi, dai, ti prendi questo spezzone. Certo, anche perché così almeno mi fai sapere quanto è fatto da, te lo profi, dai. Che mi sto cambiando, eh.